Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La squadra del Napoli ha festeggiato il terzo scudetto per tutta la notte a Udine all'hotel La Dimorette, una festa molto bella e spontanea a trapela dall'albergo. Il risveglio dei calciatori e dello staff in tarda mattinata sarebbe prevista per le 13.30 la partenza in pullman per l'aeroporto di Ronchi. Una quindicina le persone rimaste ferite, di cui 6 ricoverate o medicate in ospedale. Il bilancio del dopopartita. Il caso più grave è quello di una persona che, saltando per partecipare all'invasione di campo, è caduta e ha riportato una frattura esposta ad una gamba. A soccorrere il direttore della Sores ed al coordinatore infermieristico, entrambi sul posto. Barzila, i sindacati chiamano a raccolta i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia per ottenere da loro una presa di posizione unitaria e trasversale a favore del futuro produttivo dello stabilimento della Val Rosandra. L'inchiesta sull'ultraleggero precipitato la sera di sabato 29 aprile. Le procura di Udine al lavoro, non si escludono iniziative anche nelle prossime ore. Archiviata o quasi l'invasione azzurra dei tifosi del Napoli, Udine torna a pensare alla prossima invasione, quella degli alpini. I primi eventi in programma giovedì 11, il momento principale la sfilata di domenica 14. Oggi la messa a punto della macchina organizzativa nell'ultima riunione in prefettura del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Luoghi accoglienti, non sovraffollati e costruiti per favorire il recupero dei detenuti. Ad Udine il garante Franco Corleone chiede alla politica strumenti concreti per il reinserimento sociale delle persone. Primavera finalmente, lo diciamo sottovoce per scaramanzia, ma almeno questo weekend sembrano garantite temperature miti e giornate soleggiate. Una nuova biblioteca comunale che apre oggi non può che fare notizia, una bella notizia. Nel quartiere popolare di Melara, Trieste, la nuova biblioteca ospita il primo appuntamento di una serie di divulgazione scientifica per i più piccoli. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Anna Vitaliani e Antonio Cagliazza. Udine il giorno dopo la storica giornata di calcio vissuta ieri. L'1-1 fra Udinese e Napoli allo stadio Friuli ha consentito ai partenopei di conquistare il loro terzo scudetto. La squadra di Spalletti è ancora in città, ospite dell'hotel La Dimorette. La partenza per Napoli è prevista nel pomeriggio. Una quindicina le persone medicate all'ospedale durante la notte in conseguenza della ressa all'uscita dallo stadio o per cadute durante l'invasione di campo seguita al fischio che decretava la fine della partita e la vittoria matematica del titolo di campioni d'Italia. E allora andiamo a Udine. Davanti all'hotel dove il Napoli è alloggiato nelle ultime 2 notti ci sono alcune decine di tifosi del Napoli in attesa che la squadra esca e si diriga in direzione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. È un momento ancora di festa e per i tifosi biancazzurri e anche di riflessione per quanto accaduto ieri, una festa un po' rovinata, ci hanno detto. Da quanto successo allo stadio Friuli, l'invasione pacifica di migliaia di loro e poi la reazione di alcune decine di ultra dell'Udinese che sono entrati e hanno con le cinghie in mano e con i bastoni picchiato o minacciato di farlo, allontanando così appunto i tifosi che avevano invaso il campo. Un allontanamento che ha generato anche una calca, un po' per la calca e un po' per lo scavalcamento. Ci sono stati 6 feriti, di cui uno un po' più grave, con una frattura scomposta a un piede, ma non risultano feriti da scontri diretti. La questura sta ovviamente visionando tutte le immagini disponibili, anche se tecnicamente sarebbero sanzionabili tutti gli ingressi in campo, soprattutto in uno stadio senza barriere, però visto che si tratta di migliaia di persone anche con buone intenzioni in buona parte, l'intenzione della questura di Udine è di procedere solo nei confronti di coloro che hanno agito in maniera violenta, in maniera molesta. Questo è quello che emerge, che filtra dalla polizia. Da Udine è tutto, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E un tifoso del Napoli residente in Austria è morto di infarto questa mattina verso le 4 nella zona della stazione dei treni di Udine. Dopo le chiamate d'aiuto giunte al 112 da parte di alcune persone che l'hanno visto accasciarsi a terra, gli operatori della sala operativa hanno inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il personale ha avviato le manovre di rianimazione, ma inutilmente. L'uomo è morto in strada nei pressi dell'accesso alla stazione dove si stava dirigendo per tornare a casa in treno dopo la gara di ieri alla Dacia Arena. L'uomo in passato aveva già avuto problemi di salute. Tifosi napoletani accompagneranno la squadra anche all'aeroporto di Ronchi. Al momento però ancora non si vedono. La partenza per Capodichino è prevista nel primo pomeriggio, ma non è sicuro che sarà proprio quello l'aeroporto di destinazione. Fra le ipotesi che rimbalzano da Napoli, anche quella dell'arrivo alla base militare di Grazzanise in provincia di Caserta. Buon pomeriggio dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Siamo in attesa del pullman che porterà la squadra in pista per poi prendere l'aereo alla volta di Caserta, all'aeroporto di Grazzanise vicino a Castelvolturno, l'aeroporto che riporterà la squadra campione d'Italia del Napoli in Campania. Non atterrerà a Capodichino, questo per non bloccare l'aeroporto e per portare la squadra più vicino a Castelvolturno, alla sede del Napoli, dove si svolgeranno anche i festeggiamenti. La squadra ha passato una notte tranquilla, una notte di festa nell'albergo alla periferia nord di Udine, con il calore dei tifosi all'esterno dell'albergo fino a notte inoltrata, però è stata una notte di festa. Nulla era stato preparato anche per scaramanzia dopo che le cose con la Salernitana non erano andate nel modo giusto per il Napoli. Insomma, c'è stata un po' di scaramanzia nel non preparare la festa. È una festa davvero molto sentita quella dei giocatori del Napoli, che questa mattina si sono risvegliati e poi, come detto, verso le 13.30 partiranno dall'albergo per arrivare qui all'aeroporto di Ronchi e alle 14.40 prendere l'aereo che li riporterà a Napoli. È tutto dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari, a voi. Cambiamo ora argomento, il futuro della Varsil. Al 18 maggio a Roma si terrà un nuovo round di confronto al Ministero del Made in Italy tra azienda, sindacati e governo, ad un mese esatto dal precedente incontro. In mattinata a Trieste le organizzazioni sindacali hanno incontrato i parlamentari a cui hanno chiesto un forte impegno politico istituzionale affinché nello stabilimento di San Dorligo riparta la produzione. Il governo deve tornare protagonista e intervenire con prospettive e azioni concrete sull'avvertenza Varsil. Chiedono i sindacati che si sono riuniti oggi a Trieste incontrando 5 parlamentari del Friuli Venezia Giulia appartenenti a maggioranza e opposizione. Obiettivo: riportare il tema sotto i riflettori. Il sito di Magnoli della Rosandra è stato definito strategico, ricordano, sia per la sua collocazione geografica che per le competenze al lavoro. Il timore è che si arrivi senza soluzione alternativa all'incontro del 18 maggio, in cui azienda e istituzioni torneranno a discutere al Mimit a distanza di un mese. Il rischio sarebbe quello della soluzione unica, in cui viene lasciato a Varsil la scelta di chi subentrerà, senza così tenere conto delle esigenze occupazionali e di filiera del territorio. Unanime la solidarietà da parte dei parlamentari convenuti. Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia, ha ricordato che Varsil non è una crisi come le altre e ha garantito che non c'è immobilismo da parte del governo, che al contrario sta lavorando per allargare il ventaglio delle ipotesi. Per Deborah Serracchiani, del Partito Democratico, l'impegno del Parlamento sarà di spingere per valorizzare il tema dell'occupazione e della filiera, con ipotesi legate magari anche alla transizione ecologica. Sarebbe allora l'occasione per rimodulare il PNRR e destinare le risorse che altrimenti andrebbero perdute a un progetto nuovo, forse anche legato al piano di Valle dell'Idrogeno. Questo almeno suggeriscono i sindacati, che al termine dell'incontro non possono ancora definirsi fiduciosi ma rassicurati. Resta da capire, dicono, se il governo avrà gli strumenti per direzionare la scelta di chi subentrerà. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Potrebbero arrivare a breve, forse nel pomeriggio di oggi, le prime iscrizioni sul registro degli indagati sull'inchiesta dell'ultraleggero precipitato lo scorso weekend, con a bordo anche il pilota delle Frecce Tricolori, Alessio Gersi, oltre a un suo parente, Sante Ciaccia. La casa produttrice dell'ultraleggero, la pordenonese Alpi Aviation, in merito ai diversi incidenti accaduti di recente, sempre con quel modello di velivolo, afferma che non vi è alcuna correlazione tra tra gli incidenti e in nessun caso sono emerse responsabilità di Alpi Aviation, che produce velivoli affidabili e di qualità elevata, tanto da essere apprezzati e utilizzati anche da piloti professionisti di tutto il mondo. Nella prefettura di Udine l'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza dedicato alla dunata degli alpini. Si mettono a punto gli ultimi dettagli della macchina organizzativa già al lavoro. Appena concluso il vertice in prefettura a Udine per fare il punto sulla 94esima dunata degli alpini dall'11 al 14 maggio, un vertice presieduto dal prefetto del capoluogo friulano Massimo Marchesiello. Al momento è ancora in corso la conferenza stampa di presentazione di quanto venuto fuori dal vertice. Una adunata che comincerà da giovedì con l'omaggio all'altare a Re di Puglia e da venerdì a domenica sarà interessata la città di Udine. 70.000 le persone che domenica sfileranno dalle 8 del mattino alle 20 di sera. Venerdì la giornata inizierà con l'alza bandiera a Piazza della Libertà e l'ingresso in città delle quattro bandiere di guerra, una giornata che porterà un grande indotto economico, ha detto il sindaco del capoluogo friulano. 500 i volontari impegnati dalla protezione civile, 24 i posti letto nell'ospedale da campo che gestiranno i codici bianchi e verdi. Un vertice molto affollato che ha coinvolto tutti gli attori coinvolti nella dunata. Intanto la città sta già cambiando. Piazza Prima Maggio è un cantiere aperto. Si stanno ultimando le costruzioni degli stand e sono cominciati i lavori per la costruzione del palco e della tribuna, effettuata da parte della Polizia di Stato la prima bonifica del sito. Intanto emanato dal sindaco De Toni e dal presidente di Confcommercio il decalogo per i commercianti per i giorni della dunata. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Di nuovo cronaca, una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118 stamattina per le ferite riportate in seguito ad un incidente stradale accaduto attorno alle 7.30 a Basaldella di Campoformido, prima della nuova rotonda. Si sono scontrati una moto e un'auto. Nell'impatto frontale una persona è rimasta ferita, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un altro incidente stradale è avvenuto in mattinata nella zona industriale di Cordenons. Una persona è rimasta ferita dopo aver perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada e restando incastrata nell'abitacolo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, estratta la persona della vettura, è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. È l'ora della svolta per Via Spalato, è il titolo dell'incontro che si sta svolgendo in questi minuti al caffè Caucic di Udine. A parlare Franco Corleone, garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Un'occasione per fare il punto su sovraffollamento, diritto alla salute, ristrutturazione del sito. Pochi minuti prima della conferenza lo abbiamo raggiunto al telefono. Siamo arrivati a un punto decisivo con la ristrutturazione del carcere che è iniziata e durerà ancora un anno, però ci stiamo preparando con l'aiuto della facoltà di architettura per fare grandi modifiche nella strategia del luogo di detenzione che dovrà diventare un luogo di inserimento sociale. Vi sono molti problemi che io oggi metterò in campo, molte richieste alla Regione sulla salute mentale, su una proposta per trovare luoghi perché le persone con pochi mesi di detenzione possano uscire dal carcere in case di reintegrazione sociale, e al Comune chiediamo un impegno forte per lo sportello anagrafe in carcere, per un'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. A Pordenone si sta costruendo il nuovo carcere, a Udine si sta ristrutturando. Il carcere moderno, diverso, come deve essere? Per Pordenone io mi auguro che si faccia un carcere a Pordenone e si abbandoni quella strada perversa di un carcere contenitore a San Vito al Tagliamento. Il carcere deve essere un carcere dei diritti e un carcere che rispetta l'articolo 27 della Costituzione, quindi non un luogo di vendetta ma un luogo di reinserimento sociale. È una scommessa ma va vinta. E Franco Corleone stamane è stato anche uno dei protagonisti della mattinata che si sta ancora svolgendo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine assieme ai ragazzi di molte scuole superiori cittadine. Titolo: Il piacere della legalità. 1200 studenti, protagonisti e spettatori per questa intensa mattinata di riflessioni sul tema della responsabilità individuale, dei diritti umani, delle discriminazioni e della cittadinanza attiva. I ragazzi si confrontano sulla necessità di compiere scelte consapevoli, prendere posizione di fronte ai dilemmi etici della vita individuale e collettiva. La Giunta regionale ha posticipato il periodo d'avvio dei saldi allineandolo a quello delle altre regioni. I saldi estivi in Friuli Venezia Giulia inizieranno il 6 luglio e proseguiranno fino al 30 settembre, come avverrà anche nel resto del territorio nazionale. La decisione dopo un confronto con Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione, da cui era arrivata una proposta in tal senso. Il provvedimento, specifica la regione, ha natura transitoria e si applica esclusivamente per quest'anno. L'Associazione Nazionale della Città del Vino ha accolto tra i suoi membri Sant'Orligo della Valle e Dolina. Si tratta del secondo comune della provincia di Trieste dopo Duino Aurisina e del terzo a livello regionale dopo la stessa Duino e Manzano, a essere allo stesso tempo Città del Vino e Città dell'Olio, entrambi prodotti di eccellenza locali. La consegna della bandiera avviene alle 19.30, la bandiera della Città del Vino, in occasione della Maienca, tradizionale manifestazione di primavera a Sant'Orligo della Valle e Dolina. Ieri sul palco del Festival Vicino Lontano a Udine c'era Lucio Caracciolo, esperto di geopolitica, direttore della rivista Limes, che al microfono di Walter Scherk ha analizzato i fronti caldi di Israele e Ucraina. Lucio Caracciolo, direttore di Limes a Vicino Lontano, ha presentato l'ultimo volume della rivista dedicato alla crisi politica in Israele. Un incontro organizzato anche da Historia del Limes Club di Pordenone, Udine e Venezia. La crisi costituzionale israeliana, come cambia la situazione geopolitica del Medio Oriente? Succede la crisi più grave negli ultimi 50 anni, direi. Solo che mentre un tempo erano i paesi arabi che aggredevano Israele, adesso è il tessuto sociale, politico e culturale israeliano che è in questione. La società è divisa, i poteri sono divisi, il rischio è di una crisi di identità che possa mettere in questione non solo la stabilità interna ma anche la sicurezza di Israele. La sicurezza di Israele ma anche la sicurezza dell'Europa, dell'Italia? Non direttamente, ma sicuramente gli effetti di una crisi israeliana si fanno vedere comunque dappertutto. Non dimentichiamo il rapporto speciale con l'America, ma anche il rapporto speciale con la Russia. Insomma, Israele è un paese molto importante, è il perno del Medio Oriente, quello che accade lì inevitabilmente ci tocca. L'invasione russa in Ucraina continua, la novità sono gli attacchi con i droni al Cremlino. Cos'è successo? Chi li ha fatti? Si può fare un'ipotesi? Si può avere una certezza, non lo sapremo mai chi l'ha fatto e che cosa veramente è successo, però abbiamo anche un'altra certezza, che questo fatto, che sia vero o che sia finto, cioè che sia stato effettivamente un attacco ucraino o che sia stata un'operazione di pubblicità e di mobilitazione interna russa, comporterà, o almeno deve comportare, una reazione russa di livello almeno pari. Walter Scherk, TGR Friuli Venezia Giulia. La Commissione europea ha confermato all'Università di Udine la certificazione di qualità che premia le buone politiche di reclutamento e gestione dei ricercatori. L'Ateneo Friulano è tra le 16 università italiane ad averla ottenuta. La certificazione, valida 5 anni, attesta la solidità della strategia delle risorse umane adottata. L'Università di Udine aveva ottenuto il riconoscimento per la prima volta nel 2016. Per mantenere gli standard previsti è stata rivista l'organizzazione dei corsi di dottorato, migliorando le condizioni di lavoro dei ricercatori e del personale adibito. Il rinnovo della certificazione, commenta il rettore Roberto Pinton, rappresenta un grande risultato per l'Università di Udine ed è il frutto di un lavoro di squadra che ha permesso di sviluppare una forte sinergia tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo. La situazione meteorologica adesso, il cielo è sereno sulla regione, ecco le temperature: a Trieste 17 gradi, a Udine e a Pordenone 21, a Gorizia 21,5, Piancavallo 13,5, Tarvisio 16,5, Sappada 17, Forni di Sopra 17,5, Tolmezzo 19,5, Monte Lustari 12 gradi, Zoncolan 14, a Grado 17, a Lignano 21. E ora l'appuntamento con l'ARPA per fare il punto sul meteo del weekend. Al meteorologo Livio Stefanuto chiediamo: possiamo finalmente azzardarci a parlare del primo fine settimana di primavera? Direi di sì, con tutte le caratteristiche naturalmente che la primavera ha, nel senso che ci sarà un'alternanza di tempo soleggiato ma anche di un po' di instabilità. Il tempo soleggiato è per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che mantiene quindi correnti secche oggi e anche domani in gran parte, forse anche domenica sulle zone di costa, mentre il riscaldamento diurno provocherà un po' di instabilità specialmente sulla zona montana, dove saranno probabili delle piogge sparse, forse anche qualche rovescio o qualche temporale. Domenica non è escluso che qualche locale rovescio temporale possa interessare anche qualche zona dell'alta e della media pianura. Il freddo è alle spalle, come va con le temperature? Direi di sì, rimane comunque un maggio ancora piuttosto fresco, un inizio maggio piuttosto fresco, massime che si attestano nel fine settimana con valori attorno ai 25 gradi in pianura, attorno ai 22 sulla costa. Ricordiamo che il mare è ancora piuttosto fresco con valori attorno ai 14, quindi il vento di brezza che arriva dal mare porta aria piuttosto fresca dall'entroterra. Il 2022 ha rappresentato per l'Italia il periodo di siccità più gravoso degli ultimi anni, rendendo sempre più visibili e concreti gli effetti dei cambiamenti climatici. Quanta acqua usiamo ogni giorno? Come possiamo sfruttare al meglio questa preziosa risorsa? E a queste domande che cercherà di rispondere il primo laboratorio dedicato alla scienza in biblioteca, che si tiene questo pomeriggio alle 16 nella nuova biblioteca di Melara a Trieste. L'evento rivolto a bambine e bambini dai 10 ai 12 anni è gratuito, serve solo la prenotazione via mail a ilas@sissa.it. L'idea di questo ciclo di incontri è di Raffaella Forte Mavis Toffoletto, responsabile della biblioteca Marinelli. Abbiamo raggiunto al telefono Raffaella Forte, che nella vita di tutti i giorni lavora in una libreria della città e ha pensato che oggi più che mai fosse il momento giusto per promuovere la scienza tra i più piccoli e in un luogo in cui l'accesso alla lettura è gratuito. Innanzitutto perché c'è il discorso di Trieste, città della scienza, ci sembra giusto anche proporlo ai ragazzi, e poi perché lavorando in libreria vedo che c'è moltissima attenzione, moltissimi acquisti nell'ambito della letteratura per l'infanzia, soprattutto per quanto riguarda le emozioni, i sentimenti, questi argomenti qui, mentre per quanto riguarda la divulgazione scientifica è molto più difficile. C'è un discorso anche oggettivo di difficoltà, insomma, perché ci vuole comunque dietro un adulto che abbia un certo tipo di conoscenza per poi proporlo ai piccoli. Questo è il primo di una serie di appuntamenti che avete pensato tra maggio e giugno, dedicati alla scienza e nella nuova biblioteca di Melara. Il fatto che una nuova biblioteca pubblica apra è davvero un buon segno? Assolutamente sì, anche perché poi è una zona della città che può essere particolarmente vivace, perché ricordo che c'è un ricreatorio molto attivo in quella zona e c'è un istituto comprensivo formidabile, che è quello dell'istituto comprensivo di Balmasì, con la quale appunto si spera di collaborare. Perché la biblioteca è il luogo giusto? Perché al di fuori sicuramente della dinamica commerciale. Teniamo conto che adesso anche i libri per ragazzi comunque hanno un prezzo pubblico che incomincia a essere importante e non è accessibile a tutti, e invece in biblioteca questo può avvenire. Infatti tutti i libri che verranno presentati nel ciclo di questi incontri saranno poi disponibili in biblioteca per chi li volesse consultare, prendere a prestito e guardarseli con calma, insomma questo è l'obiettivo. Da oggi al 27 maggio il sistema bibliotecario giuliano aderisce al Maggio dei Libri, manifestazione che, giunta alla 13ª edizione, quest'anno ha per slogan "Se leggi, sei forte", che promuove la lettura come risorsa interiore in grado di rendere i cittadini informati e consapevoli. 11 biblioteche aderenti al sistema bibliotecario giuliano hanno scelto di raccontare come sono nate, il fascino delle loro collezioni, quanta vita ci sia nelle attività che propongono i lettori. Cominciano oggi le biblioteche dell'IRCI, della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria e della Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, che presentano alle 16 il nuovo centro studi nel Museo di Via Torino. Sempre oggi alle 16 alla biblioteca dell'Istituto Tecnico Volta accoglie il pubblico in via Montegrappa l'evento "Stavolta si legge sul serio". Nel 10° anniversario della scomparsa dell'artista triestino Bruno Kersikla, un appuntamento per ricordare le sue opere, il suo percorso umano e professionale, oggi alle ore 16 al Caffè San Marco di Trieste con Melitta Botteghelli e Pier Giorgio Mandelli. Si parlerà anche dell'arte contemporanea e del collezionista d'oggi, mentre alle persone che interverranno verrà donata una grafica di Kersikla firmata e numerata. In occasione della graduation dell'Executive Master in Business Administration, il percorso di specializzazione in campo economico-gestionale, l'Università di Udine e Confindustria offrono a tutti la possibilità di ascoltare una lectio magistralis e un'intervista a Beppe Severgnini. Appuntamento alle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine prima della graduation. Il direttore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, intervisterà i 4 class president, ovvero i rappresentanti delle rispettive classi del master, che potranno raccontare la loro esperienza, e sarà sempre Mosanghini a dialogare sul palco con Severgnini. L'Associazione di Promozione Sociale Costituzione in Azione presenta il libro della giornalista e docente Irene Giurovic, insegnante precario sfigato, alle ore 18 nella libreria Trova Tempo di Codroipo. L'evento sarà l'occasione per affrontare con l'autrice la piaga del precariato, ma anche il periodo emergenziale che ha contraddistinto il settore dell'istruzione pubblica. Il comitato di Pordenone della Croce Rossa celebra il 115° anniversario della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie con la presentazione del libro La Via del Cuore, storia delle croce rossine internate nel campo di Katzenau in Austria durante la Grande Guerra, curato dalle infermiere volontarie Ornella Zigami e Costanza Arcuri, alle 18:30 al Ridotto del Verdi di Pordenone. La magnifica comunità e le sue carte tra Venezia e Napoleone, il titolo del convegno che si terrà alle 18:30 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti di Borgo Ponte a Cividale. Sarà presentato il lavoro di riordinamento e inventariazione dell'antico archivio della magnifica comunità di Cividale. Sono le 12:57, chiudiamo qui questa edizione che ha avuto l'assistenza tecnica di Mauro Cumin, Carlo Morello e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Per il momento è tutto, l'informazione torna in TV col telegiornale delle 14 su Rai 3 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Anna Vitaliani e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a sentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.